Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Oggi è una giornata nera. Hanno fatto vedere la mia foto truccata a tutti i maschi della classe. Mi vergogno troppo. Lo aveva conosciuto su Facebook. Il rapporto con lui era davvero speciale, tanto che per cedere alle sue lusinghe aveva messo in rete una foto del suo seno. Vorrei sparire e non tornare più in quella scuola, ma non so come dirlo a mia mamma. Aiuto. L'inizio della fine per Amanda Todd, una ragazzina di 15 anni di Vancouver. Quelle immagini intime sbattute sul web e seguite da insulti e percosse avevano trasformato la sua vita in un inferno, tanto da spingerla a farla finita. Per i media canadesi, Amanda è morta per colpa di quel cyberbullo, quell'uomo conosciuto sul social network, che aveva cominciato a minacciarla di diffondere sul web le sue immagini in topless se non avesse accettato di fare uno spettacolo hard solo per lui. Dalle minacce, non so quanti avranno presente la vicenda di Amanda Todd, è circolata in tutti i giornali per qualche giorno. Chi frequenta la rete ha visto l'ultimo sconcertante video di questa ragazzina di 15 anni che prima di suicidarsi ha fatto un video di se stessa dove non parlava, non aveva più desiderio, volontà o capacità di parola, ma attraverso una serie di cartelli scriveva frase dopo frase quella che è stata la sua storia, il motivo per cui poi si è suicidata. Aveva più volte cambiato scuola, aveva cambiato addirittura città, quindi i suoi genitori comunque erano allertati, i suoi insegnanti erano allertati sul fatto che lei fosse vittima di un cyberbullo. Ma evidentemente nulla era riuscito a bloccare questa sorta di martirio incessante di un uomo che a distanza la ricattava, aveva messo in rete una sua foto di lei a seno nudo. Un'ingenuità, una stupidaggine, una cretineria da ragazzina. Si era sollevata la maglietta davanti alla webcam perché qualcuno gli aveva chiesto dall'altra parte. Un gesto come un altro, non particolarmente osceno, un gesto di leggerezza, ma quella foto aveva circolato per tutto il mondo, in ogni scuola in cui lei andava gliela rinfacciavano, interpretavano, intervenivano su quella foto, e lei non riusciva a riscattarsi, non riusciva a uscire dall'onta di una foto messa in rete, perché è un meccanismo stritolante quello del cyberbullismo. Poi la notizia di oggi è che gli anonimi di Anonymous avrebbero denunciato il nome del cyberbullo. Peccato che hanno sbagliato, hanno preso una persona, non è certo uno stinco di santo, non è la persona che ha causato il suicidio di questa ragazza. Voi direte qualcosa che riguarda la rete, non riguarda i miei figli, non riguarda i miei ragazzi, ma attenzione, la maggior parte, abbiamo fatto spesso noi trasmissioni su questo, dei nostri adolescenti, ma anche in età inferiore all'adolescenza, ormai hanno una protesi attiva verso il mondo della rete. Questo è un bene, perché cominciano ad abituarsi a quella che è la civiltà digitale che li ha generati e che li alleverà e che li stimolerà e farà sì che loro saranno persone diverse dai loro genitori e dai loro predecessori. Ma allo stesso tempo gli stessi meccanismi vessatori di prepotenza, di sopraffazione che esistono nel mondo concreto esistono anche moltiplicati nella rete. Non vi illudete che un ragazzo che in fondo sta buono nella sua camera davanti a un computer è un ragazzo non esposto ai rischi appunto della violenza da parte di altri suoi coetanei. Ho qualche numero davanti, poi ne parlerò con gli esperti, ma fa pensare, si pensa che il 25% abbondante degli adolescenti italiani è stato comunque vittima di provocazioni, di prese in giro, di dolorose sopraffazioni da parte dei suoi compagni di classe o altri amici. E sono ragazzi che hanno un'età nella parte più interessante, più preponderante appunto del campione preso in esame, tra i 12 e i 15 anni, quindi molto piccoli, molto giovani, ragazzi comunque hanno in mano uno strumento per mettersi in contatto con il mondo. Beh, oggi di questo vorremmo parlare. 800 24 00 24. Che sfigata. Guarda là. Sta arrivando. Ciao Noemi, guarda come sei bella nel video che ho scaricato ieri da YouTube. Consiglio degli insegnanti ha ritenuto inopportuna la sua candidatura a rappresentare la scuola nello stage a Gallia. Questo è uno spot contro il cyberbullismo di cui parleremo tra poco, quando parleremo con l'autore, uno psicoterapeuta che ha curato un libro a cui appunto è stato allegato un DVD che contiene dei cortometraggi contro il cyberbullismo realizzati in collaborazione con il gruppo Buongiorno. Dottoressa Anna Civita, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. La dottoressa Anna Civita è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Studi di Bari, dove insegna sociologia generale e collabora con la cattedra di criminologia. Ha scritto il volume Il bullismo come fenomeno sociale, edizione Franco Angeli. Sì. Che è una categoria che rientra fra le discipline studiate da una criminologa? Allora, il fenomeno del bullismo è un fenomeno di recente attuazione che mi ha affascinato molto proprio perché c'è poca informazione su questo fenomeno, che mi ha spinto a volerne sapere di più, e anche perché questo divario generazionale tra i giovani e gli adulti spinge proprio gli adulti ad essere inconsapevoli delle problematiche che affliggono i nostri figli. Anche io sono madre di due giovani fanciulle che sono affascinate dal mondo della rete e che non sono però consapevoli pienamente di quali sono i rischi della stessa rete. Bene, internet è importante comunque dirlo che è una forma di informazione che è utile, non bisogna appunto colpevolizzarla in tutto e per tutto, però purtroppo nasconde delle insidie che si verificano lì dove non si ha conoscenza piena appunto dell'uso che può essere improprio dell'internet. Dottoressa, non è che molte volte il problema nasce proprio dal fatto che l'ignoranza aleggia in famiglia, cioè viene regalato a un ragazzo un dispositivo per andare in rete perché lo chiede, voglio lo smartphone, voglio il telefonino, voglio l'iPad, voglio queste cose, non si può dire di no. Poi si pensa di aver consegnato un oggetto inerte, la cui potenza è racchiusa nel perimetro fisico dell'oggetto e non si immagina quello che c'è dall'altra parte. Se ci fosse un training un pochino più serio e intenso da parte dei genitori, rischierebbero meno questi ragazzi. Certo, il problema deriva proprio da questo, che molte volte i genitori non sono consapevoli di aver dato uno strumento capace di poter ledere gli altri, si pensa soltanto alla sua utilità. Quindi poter navigare su internet, approfondire le conoscenze, fare magari una ricerca data dall'insegnante, e quindi il modo più veloce piuttosto che consultare quella che era la vecchia Treccani, adesso è molto più veloce. Però è importante colmare queste lacune sia nei genitori che possano poi acquisire queste informazioni e passarle ai propri figli. Vediamo se le è possibile intanto dare qualche sintomo, perché io ho detto la cosa che mi sembra più evidente, che la vittima del cyberbully spesso non lo dice a casa, come non lo dice nemmeno quando è vittima di atti di bullismo concreto e reale in classe, ma il cyberbullismo è una propaggine, un estendersi degli atti di sopraffazione che avvengono nel mondo concreto, o è una cosa a sé, a parte? Allora, partiamo dal bullismo. Perché? Perché il bullismo è una sorta di prevaricazione che avviene tra pari, quindi una prevaricazione compiuta dal più forte sul più debole. È ovvio che il bullo sceglie come vittima una persona più debole, sia fisicamente che psicologicamente. Il bullismo è una prevaricazione che viene compiuta o in maniera fisica, quindi attraverso calci, pugni, o in maniera verbale, attraverso delle ingiurie, delle prese in giro, oppure delle esclusioni sociali, e questo è il bullismo psicologico. Il cyberbullying non è altro che una nuova forma, quindi una evoluzione del bullismo tradizionale, perché fa uso delle nuove tecnologie, ovvero il computer oppure il cellulare. Attraverso il computer vediamo che dunque è possibile attuare vari tipi di forme di bullismo, che sono le telefonate anonime, le email, attraverso contenuti minacciosi oppure offensivi, gli SMS che servono proprio per insultare, deridere, minacciare, oppure foto e video che sono fatte con il cellulare per immortalare la vittima in situazioni imbarazzanti, oppure queste foto vengono modificate opportunamente per poterle inviare su internet o ad altre persone. Diciamo che anche che questa nuova forma di bullismo vede come protagonisti da una parte appunto il bullo, cyberbullo in particolare, perché è colui che prevarica attraverso, abbiamo detto, o il computer oppure... Diciamo che soprattutto nei social network è il bullo che di solito è un vigliaccone e si basa sul fatto di avere il consenso, perché il consenso lo fortifica. Diciamo che nei social network è ancora più facile, una volta individuata la vittima, che probabilmente il ragazzo più debole, la ragazza meno appariscente o quella che ancora rispetto ai modelli forti della sua generazione magari, che ne so, mette le foto dei gattini o degli orsetti quando le altre mettono già altre foto, diventa un bersaglio facilissimo che si moltiplica. Anche persone che non conoscono fisicamente la vittima si possono accodare a questa catena della sopraffazione. Ma perché, dove volevo arrivare, è che a parte appunto il cyberbullo e la cybervittima, l'altro elemento caratterizzante del cyberbullismo è proprio la presenza dello spettatore, perché se non ci fossero gli spettatori, quindi questa visibilità che il bullo riceve, verrebbe meno l'atto in sé per sé. Ha bisogno il cyberbullo di avere quindi quella visibilità, quelle attenzioni che diversamente non riceve né in ambito familiare né tra i pari. Qui acquista una sua leadership muovendosi con destrezza, probabilmente conosce gli strumenti della rete meglio degli altri, più addestrato, ha una sua attitudine nel farlo, e con questo diventa il piccolo reuccio, il retravicello di questo inesistente dominio che è fatto dai suoi accoliti, che tutto sommato poi non fanno nessuno sforzo e non corrono nessun rischio nell'accodarsi in questa operazione. Sentiamo Sabrina, buongiorno. Buongiorno, intanto sempre complimenti per la trasmissione. Allora, io dico questo, ho 35 anni, mi sento un po' una via di mezzo, diciamo, forse posso capire un po' di più la mente di questi ragazzi di 15 anni. Allora, quando io avevo 15 anni queste cose non esistevano. Cari genitori, io sono madre e il più grande ha 7 anni. Cerchiamo di dare un occhio di più a questi ragazzi, forse ci stanno chiamando, forse ci stanno dando un messaggio che noi per comodità a volte non vogliamo cogliere. Veniamo a casa stanchi dal lavoro, li mettiamo lì in un angolo o nella loro camera perché così non ci disturbano, noi possiamo farci le nostre cose, parlare con il marito. E loro intanto fanno queste cose, cercano questa gratificazione, cerchiamo un attimo di portarli a fare una passeggiata il sabato, la domenica, quando andiamo in pizzeria, è successo un mese fa a me personalmente, io ho portato due giornalini per mio figlio, ho detto se ti stanchi te li guardi con tua sorella. Le altre mamme cosa hanno portato? L'iPad. Ma io non, signora, sa che le dico? No, prima che lei vada avanti, non sono d'accordo con lei. Non è con il luddismo e con la deprecazione della tecnologia che salviamo il problema. I ragazzi devono imparare a usare in maniera corretta questi mezzi. Bisogna controllare. Non è che il giornalino è meglio dell'iPad, l'iPad va tenuto nascosto come fosse qualcosa di pericoloso. Manca la comunicazione. No, manca è ignoranza da parte dei genitori. Non sanno cosa fanno i figli perché non conoscono l'uso profondo o esteso di questi mezzi. Lo mettono in mano semplicemente e pensano che poi finisca lì. Prima, io la penso così, cerchiamo di crescere questi ragazzi, dargli dei valori, insegnargli le cose genuine, sì, che non faranno mai male nella questo vita. Va bene per tutte le generazioni, però signora, è pura teoria. Poi lo puoi usare in un secondo momento. Parla con i tuoi amici, parla con le tue amiche, poi se avrai mezz'ora ti vai su internet. Lei ha figli, questo signora, vero? Certo, una di 4 e uno di 7. Ancora sono molto piccoli, ancora diciamo sono è un po' difficile. Sono molto piccoli, però ho 35 anni, sono abbastanza giovane. Queste cose, questi gruppi di ragazzi, li vedo. Tu li vedi al bar alla sera, o io vado ancora a ballare, li vedi in discoteca. Sono lì che non parlano più tra di loro, tutti che messaggiano, che si fanno le foto. Ma questo lo fanno anche le mamme. Signora, io sono stato in pizzeria ieri con amiche di età media di 40 anni, hanno riempito il mio profilo Facebook di foto della serata, lo fanno tutti. Ma per me è triste. tristissimo, è tristissimo. Ma per me no. Per me no, però non c'è niente a che fare. Il cyberbullismo è un'altra cosa, è una maniera deviata di usare queste periferiche che ormai abbiamo, in cui noi diamo segnalazione alla propria esistenza, alla nostra esistenza. Uno lo può fare, è solamente neutrale, non fa male a nessuno che una signora o una ragazza o un ragazzo mandi foto dei suoi momenti felici, fa parte della contemporaneità. L'epica quotidiana oggi passa attraverso le macchine che abbiamo in mano. La violenza, la sopraffazione è un altro discorso. Stefano. Buongiorno, io cercherò di essere quanto più possibile breve. Io ho 3 figli in età adolescenziale e la mia angoscia è suprema in questo caso, anche perché ho 2 bambine. Però lei pensi tenevo... quando andavano in guerra i figli, quanto erano angosciati i genitori? Ma è una guerra, ma in ogni caso. Beh, è una guerra. Non ho mai visto un ragazzo mutilato o esploso da una bomba. Le motivazioni sono diverse, le motivazioni sono occulte, diciamo, che poi colpiscono nell'animo, colpiscono nel profondo e si scoprono in età più avanzata. Quando arriviamo ai punti estremi di una ragazza suicida, capiamo che evidentemente non va sottovalutato il problema. Non va sottovalutato il problema. In ogni caso, quello che volevo dire è che spesso ci si scopre bulli per caso. Io ho 56 anni e mi ricordo in età adolescenziale scrissi sul rotolo di carta igienica: mi hai stancato, alla bimba che in quel momento era oggetto delle mie attenzioni. Credo che in qualche maniera tutti quanti in quel momento ci siamo scoperti per caso. Allora mi faccio una domanda: i suoi figli, Stefano, i suoi figli adolescenti, secondo lei sono bulli o vittime di bulli o niente di tutto questo? Io penso che possono essere tutte e due le cose, nel senso che non voglio essere confusionario, anzi mi perdoni se lo posso sembrare, però io ho chiaro il concetto. Io credo che possano essere tutte e due in determinati momenti diversi, nel senso che uno si può scoprire vittima, ma si può scoprire contemporaneamente bullo. Dipende molto spesso dalle situazioni che vengono vissute. La famiglia non può stare 24 ore su 24 attaccata al proprio figlio. La mina antiuomo non è quella che esplode e fa feriti nell'immediato per rovinare alla base la società, è quella che spesso, come in questo caso, diventa mina antiuomo, nel senso che colpisce e fa feriti, è un cammino che per puro caso ci si trova sopra. Poi ci sarà anche il ragazzo o in qualche maniera problematico, che può essere bullo perché viene da una famiglia che non segue, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io credo che nella grande maggior parte dei casi ci siano delle casualità che provano il bullismo e il vittimismo, se sono corretti i 2 termini. Questo è il mio, credo che delle casualità in che senso? Che non c'è una determinazione da parte dei ragazzi di salvaguardare la propria identità facendo gruppo, prendendosela con uno più debole? Lo fanno ma per caso? Quando succede, mi è successo vedere i miei figli, che c'è uno più debole, salta sempre fuori il ragazzo o la ragazza che in qualche maniera tende a fare da paravento, da comunque difensore in quel momento della persona più debole, quasi a protezione. È un gruppo che ha dei meccanismi all'interno che improvvisamente scattano con violenza o con protezione. Va bene, Elena, buongiorno, ho capito. Elena. Buongiorno Nicoletti. Vediamo se facciamo passi avanti, perché sennò rimestiamo sempre le cose già dette. Vorrei capire il punto di novità. Volevo portare la mia esperienza dicendo che queste cose sono sempre successe da una vita, magari con mezzi diversi, non con internet, non con Facebook. A me era successo che addirittura alle elementari, mi ricordo che c'era questa mia compagna che mi invitava a confini successivi e mi invitava a giocare a casa sua facendomi registrare la mia voce su un registratore, prendendo nella quale registrazione io prendevo in giro la maestra. E questa tizia a un certo punto, in fingarda, dopo circa una settimana di registrazioni, ricordo che portò questa cassetta alla maestra e la maestra la fece sentire a tutta la classe. Io ho un ricordo tremendo di quei momenti lì, quindi sono sempre cose successe. Oggi diremmo che la sua amica era minorenne, ma comunque ha compiuto un reato, e un reato l'ha compiuto anche la maestra facendolo ascoltare agli altri, perché quella registrazione, se lei l'aveva fatta in buona fede era una cosa fra voi, non poteva essere resa pubblica. Come vede, poi il moltiplicarsi delle macchine di riproduzione della realtà ha fatto sì che ci fosse anche una normativa. E se oggi uno le fa un filmato e poi lo mette in rete, compie un reato. Non può farlo. È uno dei principali strumenti di forza dei cyberbulli, ma anche degli amanti traditi, dei mariti cornuti, degli uomini infingardi. Oggi però parliamo di bullismo non in senso fisico, parliamo di il bullismo che tracima dentro la rete, si chiama cyberbullismo, e l'unico modo che ha di offendere e di colpire è il mostrare foto, il mostrare filmati, l'insistere in maniera accanita nei confronti di una persona con messaggi denigratori di presa in giro. 800240024. Questa mattina stiamo tentando di parlare di cyberbullismo, che è materia molto frequentata sui giornali questi ultimi giorni, proprio perché c'è stato l'episodio di una ragazza canadese che si è suicidata a seguito di episodi ripetuti, continui di cyberbullismo nei suoi confronti, episodi conosciuti dalla famiglia, conosciuti dagli insegnanti, tanto che ha cambiato scuola più volte, è stata costretta a cambiare addirittura città per cercare di sfuggire non tanto alle insidie del cyberbullo che continuava a rimandare in rete una foto di lei a seno nudo, ma dei suoi compagni di classe, una volta che la individuavano in quella che era diventata nota in rete per quella foto, avevano su di lei un'operazione denigratoria, di sbeffeggiamento continuo, che l'ha portata al suicidio. Senza arrivare a questo estremo, vedo che però l'atteggiamento generale di chi chiama, di chi mi scrive in internet, non è esattamente quello che mi aspettavo da un pubblico evoluto. Non è passando dal computer al giornaletto, dal tablet alla bella passeggiata fra i boschi tenendo per mano un ragazzo che si risolve il problema. Oggi le protesi emozionali che ognuno di noi ha a disposizione dai 9 ai 90 anni, che permettono di espanderci verso gli altri, hanno un uso molteplice, un uso dal quale non si può regredire, tornare indietro, dice beh spegniamole tutte e torniamo a respirare i profumi della natura. Sì, facciamolo, ma lo faremo sempre con qualcosa in tasca, ci metto in comunicazione con il mondo. È importante capire quanto i ragazzi, su cui ancora si può fare un'operazione di convincimento e di educazione, lo dico nel senso più completo della parola, imparino a usare nel senso giusto queste protesi, perché è molto facile se partecipare a un'azione di bullismo concreto e reale nella classe può rappresentare ancora un minimo di remora per un ragazzo ben educato, con ben strutturato o con sani principi respirati in famiglia, e quindi può fare una resistenza. In rete è molto più facile, è molto più facile aggiungere un mi piace, un like all'infinità di messaggi che prendono in giro una persona, è molto più facile fare un commento cattivo su una foto. Quel commento cattivo deve capire il vostro ragazzo, che equivarrà a un calcio nel sedere, a uno schiaffo, a uno sgarbo molto potente nei confronti della persona. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Daniela è responsabile di donnamoderna.com, ci ha chiamato perché lei si occupa di una comunità in rete, mi sembra aver capito. Sì, esatto, diciamo che mi occupo da 12-15 anni di cyberspazio, di contenuti in rete, di community in rete, perché prima anche ho fatto 12 anni sulla community di Virgilio, che è una delle community più estese della rete italiana, diciamo. E quindi prima che arrivassero i social network, certo. Mi sono permessa di chiamarvi perché ho un po' un palcoscenico privilegiato, in quanto noi moderiamo, diciamo, abbiamo un ruolo di attivo anche di presenza sulla rete dal punto di vista degli operatori, no? Dimmi allora il tuo punto di vista. Il mio punto di vista semplicemente si collega molto da vicino a quello che tu dicevi, mi permetti di dare poco fa. È molto facile scivolare nel luddismo e nella demonizzazione di questi mezzi di comunicazione, additando negativamente lo strumento come il responsabile di queste azioni terribili che vengono fatte. Per cui io sono assolutamente, condividiamo che il cyberbullismo è una cosa brutta, è un reato, va controllato. Ma tu hai un tuo punto di vista, diciamo, sì, una tua opinione su quello che è l'atteggiamento degli adulti, perché cyberbullismo si ferma a una certa età, poi diventa altra cosa, diventa stalker, diventa stalking, diventa una forma di sopraffazione nei confronti di persone adulte, diventa un reato, è un'altra cosa. Ma Fermandoci nell'area degli adolescenti, c'è una consapevolezza da parte dei genitori di un possibile intervento, oppure si alza le braccia e dice beh, si faranno le ossa in questa maniera, come si diceva una volta? La cosa drammatica, io parlo del nostro paese, è che noi ci riferiamo, magari a volte siamo autoreferiti, chi utilizza di più i nuovi media e pensa alle grandi città e non pensa a quello che succede in tutto il paese, ma c'è una grandissima ignoranza, una grandissima paura di questi strumenti, perché i genitori che non sono nativi digitali come i ragazzini di cui stiamo parlando, non conoscono gli strumenti e quindi tu hai detto poco fa dobbiamo insegnare ai ragazzi come utilizzare, ma qua secondo me bisogna cambiare un po' il paradigma, sono un po' i ragazzi che dovrebbero insegnare ai genitori come che cosa sono questi strumenti, che sono visti un po' come una black box, per cui la signora di prima che ti ha chiamato ha detto io gli do il giornalino perché l'iPad, sai, è limitativo della sua evoluzione culturale. No, come hai detto tu, l'iPad è un altro consumo culturale che non ha nulla di più negativo, più o meno negativo rispetto al giornalino, nella misura in cui magari 15 anni fa se non gli si dava il giornalino I miei genitori, i miei nonni dicevano basta con questi giornalini, leggiti un buon libro, e mi levavano i giornalini. E probabilmente i genitori prima levavano i libri e dicevano non so, vai a mungere la mucca. Cioè ogni generazione ha avuto qualcosa da demonizzare, questa ha i computer, chiaro. No, ogni strumento, cioè questo noi lo conosciamo bene dal punto di vista sociologico, cioè ogni nuovo strumento introdotto nella mass market, nella comunicazione di massa, viene visto come il demone che non so, dovrebbe annichilire la mente. In realtà ci sono due punti di vista, secondo me. Da un lato è vero, i genitori devono aiutare e guidare soprattutto i ragazzini più giovani nel consumo di questi, nell'utilizzo di questi strumenti, ma dall'altro lato bisognerebbe che anche si creasse un flusso reciproco, secondo me, in cui i nativi digitali, li chiamiamo così, quelli che sono nati, che hanno già l'internet a casa. Sì, questa è una bella teoria, lo dicevano i padri fondatori di tutto il pensiero digitale, saranno le generazioni figlie a addestrare i genitori, ma secondo me ci sono strumenti per imparare, non è che sono cose difficilissime, uno deve dire al bambino insegnami come si fa. Ancora secondo me siamo in una fase in cui i genitori avrebbero qualcosa da insegnare ai loro figli. Alberto da Bruxelles, buongiorno. Salve, buongiorno. Dottor Nicoletti, io le volevo dire, secondo me il problema nell'utilizzo di queste, come le chiama lei, protesi emozionali, è il fatto che queste sono degli oggetti troppo pericolosi, non possono essere messi in mano a... Mi chiama la Bruxelles per dirmi questa stupidaggine, mi scusi, lasciamo perdere. Se questo è il suo pensiero, non la faccio manco andare avanti, che perdo tempo. Ha qualcosa da aggiungere a questa banalità, che sono oggetti troppo pericolosi? Mi spieghi, anche l'automobile è pericolosa, anche... Infatti un'automobile non la mettiamo in mano a un dodicenne, ecco perché... Guardi, non vado avanti, ridiciamo cose che ho anni che parlo di queste cose, mi scusi, impieghi meglio il suo tempo, noi impieghiamo meglio il nostro. Nicola Iannaccone, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, è uno psicoterapeuta, ha curato il volume Stop al cyberbullismo, per un uso corretto e responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione. Edizione La Meridiana, è un libro che contiene, come ho già detto, 10 cortometraggi sul cyberbullismo stati realizzati con la collaborazione del gruppo Buongiorno. Mi scuso con lei, con gli ascoltatori, per il mio momento di stizza, non ne posso più di sentire dire questi oggetti pericolosi quando sono gli oggetti su cui è basata la nostra civiltà contemporanea. Prego, professore. Sì, no, è un po'... Io condivido la sua battaglia, tra l'altro la posizione che ha dato alla discussione, anche perché appunto il cyberbullismo, questo libro è pubblicato nel 2009 e abbiamo iniziato a lavorarci nel 2007 e da oltre 20 anni che lavoriamo su questo tema. La questione è proprio quella di non concentrarsi sull'oggetto, un po' come dire, per evitare le tag e le scritte sui muri togliamo... Demoliamo le case, ecco così. Togliamo i pennarelli o impegniamo i ragazzi a saper scrivere. Il problema è che il bullismo è un fenomeno sociale e noi più di 15 anni fa abbiamo detto che il bullismo è una risorsa, perché ci obbliga a ragionare su alcuni valori e su come vogliamo passare questi valori ai nostri bambini. Soprattutto che non è neutrale il passaggio dal mondo concreto al mondo inconcreto della rete. Occorre seguirlo questo passaggio. Ma il problema è che la rete è un vantaggio, perché proprio citando il fatto della ragazzina che si è suicidata, Amanda Todd, la ragazzina canadese. Noi oggi sappiamo che Anonymous, la rete per la libertà in rete, appunto, hanno individuato chi era lo stalker. Sì, no, però hanno sbagliato, hanno individuato una persona. Io non sono nemmeno d'accordo nel cyberspionaggio. Se l'hanno individuato, consegnino alle autorità il nome. L'hanno fatto. Sì, ma non era lui, era un'altra persona. Questa è la notizia di questa mattina. Ahimè, non era. Sì, una cosa, però, professore, mi lascia perplesso una cosa. Non voglio adesso andare a dragare cose di cui non conosco tutti gli elementi. Ma se la ragazza suicida canadese era comunque aveva comunque comunicato sia alla scuola che ai genitori il suo problema, come mai è arrivata a questo punto estremo, pur sapendo gli insegnanti e i genitori? Non c'è una possibilità di intervento. Voglio fare un caso analogo. Una ragazzina che comunicasse al genitore, alla scuola, di essere vittima di un cyberbullo. Secondo lei non esiste nessuna possibilità di intervento che non sia quella di accompagnarla poi a un gesto estremo come il suicidio? Mi sembra impossibile. No, appunto, da questo punto di vista è proprio questa la questione. E la rete e il click mi piace o chi poi commentava la foto che rendeva per questa ragazzina ingestibile quanto stava succedendo. Ma non ci poteva essere un intervento anche nei confronti della ragazza per depotenziare il valore che lei dava a ciò che accadeva in rete? Mi sembrava molto singolare. Dall'altra parte, qui siamo appunto in un caso di stalker, è più una situazione di sessismo piuttosto che... Sì, poi se fosse veramente un adulto sarebbe una cosa ben diversa, non è un cyberbullo, è uno stalker, è un criminale, non è un ragazzino inconsapevole. Quindi, bisogna fare attenzione a non far di tutto un erbo fascio e riuscire a riconoscere che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in particolare ci permette di intervenire con maggiore efficacia sul fenomeno delle prepotenze, di come si strutturano le prepotenze, perché non c'è mai un dittatore che compare così all'improvviso, c'è sempre una situazione che ha permesso l'emergere. Ecco, lei ha detto una cosa che non avevo riflettuto, che considero un dato molto importante. Nei casi di bullismo tradizionale ci si fida sempre del racconto della vittima del bullo e di vagamente impressioni generali, non c'è mai un insegnante che individua tutto il percorso. Nel caso del cyberbullismo è possibile tracciare tutto il percorso della vessazione e capirne anche i motivi profondi. Cyber rincoglionito, spero ti facciano chiudere la trasmissione. Nicoletti ha appena effettuato un atto di bullismo nei confronti dell'ascoltatore di Bruxelles. No, non ho effettuato un atto di bullismo, un atto di rispetto nei confronti di chi mi ascolta e spera da questa trasmissione di avere degli elementi di valutazione di alcune realtà che portiamo alla ribalta di tutti. Non può un ascoltatore scrivermi un SMS, voglio chiamare, intervenire da Bruxelles, ho cose da dire, poi mi dice queste macchine sono pericolose. È una banalità inqualificabile. Stiamo parlando di un fenomeno come il cyberbullismo. Interessante, ci sta dicendo il nostro ospite, perché permette di recuperare alcuni tracciati, alcuni percorsi, alcuni non detti, alcune tensioni nascoste che sono negli adolescenti, che nell'esprimersi questo atto di violenza, che però maschera comunque un bisogno, una richiesta anche da parte del bullo, e quindi di questo vorrei riflettere. Se uno comincia a dire queste macchine sono pericolose e mi chiama attraverso un telefono cellulare, naturalmente, che comunque è una macchina pericolosa, io leggo la sua telefonata attraverso il monitor di un computer, che comunque è una macchina pericolosa, questa trasmissione per andare in onda comunque va su delle linee che trasmettono dei segnali digitali che fanno parte comunque del materiale pericoloso che considera questo ascoltatore, trovo una banalità iniziare così e non lo faccio andare avanti. Dottor Iannaccone, riprendiamo il nostro discorso, mi interessava molto quello che diceva lei, osservare il cyberbullismo come una mappa per interpretare alcune tensioni che avvengono nel mondo degli adolescenti. Che avvengono nel mondo degli adolescenti, perché il bullismo altro non è che la manifestazione messa in atto dai nostri cuccioli del comportamento della prepotenza e dell'aggressività per il dominio nel gruppo, per cui è un fenomeno sociale da questo punto di vista. Quanto è forte il rapporto fra bulli genitori e bulli figli, tanto per dire cose non piacevoli? Sì, ma non è così diretto. Gli studi da questo punto di vista sono concentrati come al solito sull'individuo, sulla relazione bullo-vittima e quindi sulle caratteristiche intrapsichiche del bullo. Ma noi oggi sappiamo che non è così, non è tanto la caratteristica intrapsichica dell'individuo, tra virgolette, che può diventare bullo o dell'individuo che può diventare vittima, ma è il gruppo che mantiene questo tipo di relazione. E quindi senz'altro sono delle caratteristiche di agito maggiore da chi assume dei ruoli di leadership in maniera negativa. Sentiamo Bernardo un attimo. Bernardo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Sì, io chiamavo perché questo avvenimento della ragazza canadese mi ha riportato alla memoria un altro accaduto, insomma, nella mia città di Perugia, che successe qualche anno fa e che diciamo che è stato il primo grosso caso eclatante di come la rete abbia cambiato anche i rapporti tra i ragazzi, in quanto senza fare nomi, diciamo che la vicenda si era svolta che questa determinata ragazza aveva perso un video in cui si ritraeva lei e il suo... Ah, una famosa ragazza di Perugia, me lo ricordo. È un caso da manuale. Una ragazza aveva fatto l'amore con il suo fidanzato davanti a una telecamera. Questo ragazzo, non sa per quale ragione, lo ha messo in rete, ma si parla veramente di una decina di anni fa, se non più. Era diventato il video più cliccato anche in Giappone, adesso non mi ricordo come si chiamava. Esatto, ma sì, neanche diciamo poi diventato classificato come materiale, insomma, illegale. Quindi sì, ci fu una vicenda legale, sì, ma però mi ricordo, era agli albori proprio della rete. In un attimo questa ragazza si ritrovò dal nulla ad essere, diciamo, scaricata, ma in tutto il mondo. In tutto il mondo. E eravamo agli albori della rete, nel senso che anche scaricare un video era molto più difficile. Ecco, io pensando a questo avvenimento in cui in un attimo io, ragazzino, perché facevo il liceo in quel momento, mi ritrovavo amici da Milano che mi chiedevano informazioni su questa vicenda, mi rendo conto adesso di come anche nel caso del bullismo il problema sia proprio questo, che si sono estesi i confini, nel senso che prima il bullismo veniva confinato nella scuola, nell'istituto, comunque poteva essere controllato. Adesso questa cosa toglie, diciamo, i confini anche a questo. I genitori, io li capisco, perché non possono più fondamentalmente proteggere i loro figli, perché i confini si sono così tanto allargati che a questa... Quindi invece che proteggere, che ormai è un termine che a me appartiene al passato, devo dare gli strumenti per gestire questo mondo che è così difficile. Enrico, sentiamo Enrico. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo sottolineare quanto il cyberbullismo possa essere, tra virgolette, più pericoloso del bullismo che può avvenire nelle strade, in quanto tramite internet, comunque tramite una webcam, comunque uno strumento in cui si è a contatto tramite la rete, possiamo condividere con l'altra persona degli aspetti privati che sono nelle nostre indole e che non vorremmo rendere pubblici. Ecco che quando il cyberbullo agisce, lo fa per rendere nel modo in cui rende pubblico qualche cosa che noi non vorremmo mai fosse rivelato ai più. E vorrei portarle un'esperienza personale. Io quando ero piccolo, io ho 26 anni comunque, quando ero molto giovane ho subito degli abusi sessuali da parte di una persona e questo mi ha fatto stare molto male, ho avuto delle... lo immagino, cioè. Il mio carattere. Però le assicuro che quello che tenevo di più è che questa cosa rimanesse segreta. Ora, se questa persona avesse rivelato quello che mi aveva fatto, questo mi avrebbe fatto molto più male. Moltiplicava il danno che ha già avuto. È molto chiaro questo. Allora, dottor Iannacone, vediamo di portare un punto di chiusura. Anche quest'ultima testimonianza ci fa chiarire questa. Lei è d'accordo che ho fatto un atto di bullismo nei confronti dell'ascoltatore? Continua a arrivarmi messaggi. No, perché lui si è espresso, l'ha detto subito. Che ci sia una disparità di potere e soprattutto è un fenomeno che riguarda le relazioni tra i bambini e tra i ragazzi. Lei ha utilizzato il suo potere nel controllo della trasmissione e l'ha utilizzato come in base al ruolo che ha, insomma, ecco. Non credo che sia una situazione di bullismo questo. Bullismo è qualcosa di molto più specifico. Quindi questa mattina siamo riusciti a dare soltanto una prima infarinatura e circoscrivere il problema. Io direi che con lei ci risentiamo fra non molto e cominciamo a dare proprio il vademecum delle cose da fare, degli atti da operare nei confronti dei figli quando questo problema sembra palese. Grazie, a domani.